Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Destini incrociati oggi vola al di là dell'oceano, negli Stati Uniti. È proprio qui, in America, che i protagonisti di questa storia hanno conosciuto il successo, quello vero, planetario, indiscusso, baciato dalla critica e dal pubblico e benedetto da una montagna di premi. Vi sbagliate, tuttavia, se credete che tutto sia cominciato qui. Le carriere di questi personaggi partono da molto lontano, o da molto vicino, se le guardiamo dal nostro punto di vista. Si sa, gli italiani sono un popolo di santi, navigatori, poeti e creativi, nel senso più ampio del termine. Il primo personaggio di oggi ha saputo crearsi da sé la sua immensa fortuna. È partito da un modesto paese del sud della nostra amata penisola ed è arrivato sul set del celebre remake di un'altrettanto celebre pellicola hollywoodiana. È qui, sulla splendida isola di Kauai, a nord di Honolulu, che abbiamo il piacere di fare la sua conoscenza. Siamo a metà degli anni 70. Sono passati oltre 30 anni dall'uscita del primo film che aveva per protagonista la scimmia più celebre del mondo, il gigantesco, feroce e pur tenero King Kong. 30 anni sono un tempo sufficiente per decidere di rimettere mano a una storia e a una figura così ben consolidate nell'immaginario collettivo mondiale. Un produttore cinematografico con una buona dose di fiuto non può farsi scappare una simile occasione. Nuove ambientazioni, nuovi attori, nuove sfumature psicologiche dei personaggi. È questo quello che ci vuole per rivitalizzare una storia forse un po' invecchiata, ma certamente ancora carica di potenziale narrativo. E nuovi effetti speciali, ovviamente. Il pubblico degli anni 70 è assai più smaliziato di quello di 30 anni prima e non si lascerà di certo incantare da un pupazzo di 15 centimetri ricoperto di peli di coniglio filmato sullo sfondo del plastico di Manhattan. Il remake di King Kong è ambizioso, proprio come il suo produttore, Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis. I was auditioning for the girl. Ho partecipato al provino per la parte della donna in King Kong e il produttore... Vuoi dire il nome? No. Dai, dillo. No. De Laurentiis. De Laurentiis. Ero nel suo ufficio ed ero nuova nel mondo del cinema. Ed ero molto carina al tempo. Stavano vedendo molte modelle, ballerine, ragazze bellissime. E suo figlio aveva organizzato i provini. Così sono entrata, mi sono seduta, lui mi ha guardato. Poi ha guardato suo figlio e mi ha detto... Cosa? Che brutta. Questa è l'esperienza di Meryl Streep con De Laurentiis, certamente un personaggio non facile. Il produttore di origini italiane è già un'autorità nel panorama hollywoodiano. Eppure questo film rappresenta un rischio, una scommessa, una sfida da vincere a tutti i costi. Se la scelta del regista gli ha fornito parecchi grattacapi, così come quella della location per le riprese, non ha dubbi su come comportarsi in materia di effetti speciali. Stavolta si faranno le cose in grande. Niente modellini di 15 centimetri, ma un pupazzo alto 10 volte tanto. Un King Kong di 12 metri, reso vivo da un complicato mix di circuiti elettrici e componenti idrauliche e meccaniche. A idearlo sarà un suo connazionale, sconosciuto al cinema americano, ma pronto a dedicarvisi anima e corpo. È ancora presto per conoscerlo. Prima sarà bene fare un passo indietro e ripercorrere le origini di Dino De Laurentiis, il produttore venuto da lontano. Per farlo, abbandoniamo un po' l'Oceano Pacifico e torniamo dalle nostre parti, affacciati sul Golfo di Napoli. Nel 1919 Torre Annunziata, 27 chilometri a sud del capoluogo campano, è un comune che conta all'incirca 40.000 abitanti e poco meno di 100 stabilimenti, tutti legati all'industria della pasta. Agostino De Laurentiis, il cui nomignolo di battaglia Dino è ancora ben lontano da fare capolino, nasce proprio in questo contesto così tipicamente italiano, in mezzo ai pastifici, con il mare davanti e il Vesuvio alle spalle. Il padre Aurelio è un piccolo imprenditore. La sua azienda produce spaghetti, ziti, maccheroni, come da tradizione locale. Difficile immaginare per De Laurentiis un retroterra più verace di questo. Il 1919 è un anno fatidico per la storia d'Italia. Ci si è appena lasciati alle spalle un doloroso periodo di lutti. La Prima Guerra Mondiale è finita nel novembre dell'anno precedente ed è costata al paese 600.000 morti. Il 19 marzo, il futuro dittatore Benito Mussolini fonda a Milano i Fasci di Combattimento, avvenimento foriero di tragiche conseguenze. Eppure, in quello stesso anno, l'8 agosto, sotto il caldissimo sole che fa risplendere la costiera, nasce il piccolo De Laurentiis, sul cui futuro si propaga sin dai primi istanti di vita una specie di fortunata profezia. Agostino nasce infatti con la camicia, ovvero ancora avvolto nella placenta materna, cosa che in meridione viene considerata segno di prosperità. Il suo glorioso destino sembra essere già scritto. Che non può gricchiare, ha cominciato col vestito della sorella papazia. Chi la non può un guaglione, vuole essere una signora. Chi la non può un guaglione, crede ancora all'amore. Fin da bambino, Agostino mostra di non avere un amore particolare per i libri di scuola. È certamente un bimbo e un ragazzino curioso, ma ha la netta sensazione che le cose succose e importanti della vita non si imparino stando seduti dietro a un banco o a una scrivania. Sulle poltrone di velluto del cinema, invece, beh, lì sì che c'è da imparare. E lui stesso a raccontarcelo dalle pagine della sua biografia. Vivendo in una provincia come Torre Annunziata, dove la sera non c'era altro da fare che andare a vedere un film con gli amici, il cinema era il mondo della fantasia. Io ne ero innamorato da sempre. Facevo collezioni delle foto dei divi, americani soprattutto, ritagliandole dalle riviste e incollandole su un quaderno. Non avevo la più pallida idea di come si facesse un film, di quello che succedeva dietro la macchina da presa. Però entrare nel cinema era uno dei miei sogni. La passione per il cinema, però, deve aspettare. Se gli manca la voglia di studiare, c'è sempre un posto per lui nell'attività di famiglia. Il giovanissimo Agostino, dunque a soli 15 anni, viene lanciato nel settore del commercio. Fa il commesso viaggiatore per conto del padre, occupandosi della reclamizzazione e della vendita dei prodotti del pastificio. Se ne va in giro con una valigia zeppa di spaghetti, sfoderando la sua strabiliante parlantina, la stessa che in futuro si rivelerà la sua carta vincente. Il giovane De Laurentiis percorre in lungo e in largo il centro e il sud Italia, rendendosi conto di quanto è diversa la realtà del paese rispetto alle chiacchiere che si leggono sui giornali o si sentono alla radio. Tutto fila per il meglio sul suo personale fronte lavorativo, eppure l'adolescente è irrequieto, insoddisfatto. Così come si ritrova a sognare a occhi aperti davanti al grande schermo di un cinema di provincia, allo stesso modo sente di dover pensare più in grande per quel che riguarda il suo futuro. La risposta ai suoi grandi interrogativi gli arriva per caso, affissa a un muro della stazione ferroviaria di Termini. Si trova in viaggio per lavoro, ma da questo momento in poi la sua vita non sarà più la stessa. Un giorno a Roma vidi attaccato al muro un manifesto del Centro Sperimentale, diretto a chi voleva diventare attore, regista o far parte del mondo del cinema. Io a quell'epoca, senza esperienza, pensavo che il cinema fossero gli attori. Non immaginavo cosa ci fosse dietro la macchina da presa. Feci un provino, mi misi su una sedia e mi dissero: «Fai finta di essere in barca e avere davanti a te una ragazza». Inventai lì per lì delle battute. Dopo un po' ricevetti una lettera in cui si comunicava che ero ammesso al centro sperimentale. Il giorno dopo partii per Roma all'avventura. Il giovane De Laurentiis lascia Torre Annunziata e si stabilisce nella capitale. Il padre, che ha consentito a mantenerlo per un po' di tempo, gli passa regolarmente un piccolo stipendio. Agostino non nuota certo nell'oro, ma ha quel che gli occorre per pagare l'affitto, mangiare, comprarsi le sigarette e offrire di tanto in tanto una cena al nuovo amico e compagno di studi Pietro Germi, futuro regista di Divorzio all'italiana, arrivato da Genova con tanta grinta e pochi soldi in tasca. È proprio Germi a dirigere De Laurentiis in una delle sue primissime prove d'attore. Quando feci questo film, che fu la prima regia di Germi, lui mi diceva tutti i giorni: «Ma quanto sei bravo, farai una grande carriera». Poi, quando finì il film e lo fece vedere a tutta la direzione, le altre persone mi dissero: «Bravissimo, farai carriera, continua così, diventerai un grande attore». Io mi prendevo tutti questi complimenti, ma restavo della mia idea. L'attore non volevo più farlo, non si adattava neanche al mio carattere. Alla scuola di cinema Agostino studia da attore, ma con il proseguire delle lezioni in lui si fa viva una certezza. Quello davanti alla macchina da presa non è il posto giusto dove stare. Il dietro le quinte sarà il suo regno. È lì che si prendono le decisioni, oltre il cerchio luminoso dei riflettori e non sotto di essi. È il meraviglioso paradosso del cinema. Devi stare nell'ombra se vuoi davvero contare qualcosa. Finito il percorso di studi al centro sperimentale, De Laurentiis si trova praticamente in mezzo a una strada. Il pastificio di famiglia ha chiuso i battenti. Il padre non potrebbe aiutarlo neanche se volesse. La situazione è drammatica, ma non è certo il momento di darsi per vinti. Tirai avanti con il coraggio della disperazione, tanto alle spalle non avevo più niente. Feci di tutto, e non mi vergogno a dirlo. Anzi, lo ripeto spesso e volentieri, per far capire ai giovani che per imparare il mestiere del cinema ci vuole una buona dose di umiltà. Mentre mi arrabattavo, però, sentivo che non potevo andare avanti così. Dovevo darmi una mossa. Ci voleva un'idea. L'idea di fatto prende forma leggendo su un giornale che a Torino versano in grave crisi gli studi cinematografici FERT. Potrebbe essere una buona occasione per introdursi nell'ambiente, ma come fare senza un curriculum, senza capitali, senza uno straccio di niente in mano? Eppure il giovane De Laurentiis non demorde. Racimola i soldi per il viaggio e si precipita a Torino forte di una convinzione. Perché il cinema italiano, nato nel capoluogo piemontese grazie all'opera di Arturo Ambrosio, pioniere nostrano della settima arte, non può risorgere proprio lì, da quegli stessi luoghi? Per l'occasione, Agostino De Laurentiis sceglie di fabbricarsi un nome di battaglia. Vada per quel cognome con la doppia I che allude a una remota nobiltà, ma Agostino è decisamente d'impiccio. Meglio una forma abbreviata, più moderna, Tino, oppure addirittura Dino, più morbido ed efficace. Il mondo del cinema ancora non lo sa, ma di certo sta per scoprirlo. È nato il produttore Dino De Laurentiis. Cancel my subscription to the resurrection. Love is the law, pure perfection. I'm born again. Yeah. Who said love was a losing game? I got a light, man. I feel no pain, 'cause I'm born again. Da Torino, dunque, inizia il percorso trionfale del neoproduttore Dino De Laurentiis. All'inizio degli anni 40 fonda la Realcine, piccola casa di produzione, il cui primo titolo importante è il remake di un film svedese, L'amore canta. Benché non si tratti di un successo, la pellicola gli vale comunque l'interessamento dei vertici della casa di produzione cinematografica Lux. Per un giovane entrato così da poco nel mondo del cinema, la convocazione alla Lux è un evento davvero straordinario. Alla Lux, Dino ha l'occasione di lavorare a produzioni di tutto rispetto, giocando un ruolo importantissimo nella rinascita del cinema italiano del secondo dopoguerra. Importantissimo tassello di questo periodo è Riso Amaro, del 1948, sul set del quale ha l'occasione di conoscere la futura moglie, la mondina Silvana Mangano. Che fai, Silvana? Vai a spasso? Bossa sta schigna, caplinum! Porca pulenta! Non si parla sul lavoro. Se hai qualche cosa da dire, dilla cantando. Si usa così. Fretta e furia, le clandestine incominciano ad andare. Così. De Laurentiis non può fare a meno di pensare sempre più in grande. Sull'onda dei consensi ottenuti grazie a Riso Amaro, fonda con l'amico produttore Carlo Ponti la Ponti De Laurentiis, che nei primi anni 50 sforna successi come Totò a colori di Steno ed Europa 51 di Roberto Rossellini. Nel 1954 è la volta di un americano a Roma, interpretato dal grande Alberto Sordi. La mostarda. What is the name of la mostarda? Poderazzi. Questa roba è magna dell'americano, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccalona. Mazze zuzzerina. Gli americani, maccalone. Mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno. Questo lo chiamo il gatto. Questo è il sorcio. Questo è ammazzano di cimice. E che bellate. sono americano io. Verme, io me ne mangio. E se Alberto Sordi veste i panni di un americano a Roma, non mancherà molto prima di vedere De Laurentiis vestire quelli di un italiano in trasferta negli States. La sua collaborazione con Federico Fellini, infatti, produce due indiscussi capolavori: La strada e Le notti di Cabiria, bis di Oscar come miglior film straniero nel 57 e nel 58. Grazie all'exploit felliniano, De Laurentiis è diventato celebre anche all'estero. Nei nuovi studi di Dino Città, fatti appositamente costruire nei dintorni di Roma, è facile incontrare star hollywoodiane del calibro di Audrey Hepburn o Ava Gardner, accorse in Italia per girare pellicole prodotte da Dino. Una stagione prospera, quella tra gli anni 50 e i 60, sia per il cinema italiano che per l'Italia. Una prosperità che però è destinata a finire. È il 1972 quando in Italia viene varata la legge Corona, che assegna i sussidi statali unicamente alle pellicole con il 100% di produzione italiana. De Laurentiis intravede immediatamente i pericoli di questa chiusura del mercato e non esita un istante. All'inizio degli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti. Per un uomo della sua pasta, l'idea di ricominciare da capo non rappresenta certo un problema, anche se sa bene che non sarà una passeggiata. Mi trovavo un po' nella situazione dei miei esordi. Sotto tutti i punti di vista, operando in un paese diverso per lingua e cultura, mi sentivo molto incerto. Non potevo ancora sapere che cosa avrebbe funzionato sul mercato americano a livello di racconto cinematografico. Decisi di tentare con un primo film e vedere come andava, pronto a continuare il lavoro negli Stati Uniti o a tornare indietro. Il famoso produttore italiano Dino De Laurentiis ha il coraggio di fare armi e bagagli e trasferirsi al di là dell'oceano. È in crisi di liquidità e non spiaccica una parola d'inglese. Ma ben presto il suo coraggio e la sua intraprendenza vengono premiati. Nonostante la barriera linguistica, infatti, nel giro di un paio d'anni produce film americanissimi come Serpico con Al Pacino e I tre giorni del Condor con Robert Redford. Emergenza. Sono Joe Turner. Senta. Qualificarsi. Cosa? Identificazione. Ah, beh, mi chiamo Turner, lavoro per voi, mi stia a sentire. Il nominativo? Ah, me l'ho detto, mi chiamo Turner. Nominativo in codice. Ah, Condor. Sezione nona, dipartimento 17, c'è stato un massacro. Quale entità? Come entità? Entità dei danni. Tutti morti. Il fiuto di un ottimo produttore va ben al di là dei problemi che possono generare le differenze linguistiche. De Laurentiis lo ha ampiamente dimostrato. Il suo rapporto con i registi si intensifica sempre di più. La sua figura è richiestissima in quanto garanzia di qualità. Le racconto un episodio. Ero ancora in Italia a fare dei film. Ci fu un regista, Michael Winner, che io non conoscevo personalmente, mi chiama da Londra, dice: signor De Laurentiis, c'è una sceneggiatura con Bronson, accettate, io vorrei fare il film con lei, è interessato a finanziarlo. Senti, io non posso prendere in considerazione nessun film, importante che sia, se non vedo la sua faccia, perché se la sua faccia non mi è simpatica, io progetto tutto quello che vuole, non mi interessa. Metti il sedere sull'aereo, venga a Roma, si faccia vedere e ne parliamo. Lui venne a Roma, si fece vedere, mi era simpatico e facemmo il film. Il film in questione è Il giustiziere della notte, altro successo firmato De Laurentiis. Protagonista il duro Charles Bronson, già star del western ora convertita al poliziesco. Dino sembra non sbagliare un film, eppure ce n'è uno che forse rischia di costargli la carriera. Si tratta del remake di King Kong, fortemente voluto nonostante le evidenti difficoltà organizzative e produttive. Se nel cinema degli anni 30 gli effetti speciali avevano un peso e una misura, ora, nel 1976, quei pesi e quelle misure sono stati completamente stravolti. Siamo ormai prossimi all'avvento di capolavori dell'effettistica del calibro di Guerre Stellari. Il primo capitolo della saga di George Lucas, infatti, uscirà di lì a un anno, nel 1977. Un bravo produttore come Dino De Laurentiis ha capito che aria tira. Non può permettersi di fare un film alla buona, né tantomeno può adagiarsi sul già visto e sul già sperimentato. Il suo King Kong dovrà stupire il pubblico con effetti strabilianti, sensazionali, mai visti prima. Prende il telefono e compone un numero. È il numero dell'unica persona che potrà farlo uscire da quell'impasse. E guarda caso, si tratta di un numero italiano. Color me your car, baby. Color me your car. Destini incrociati. Destini incrociati è in America, sul set del Colossal King Kong. Il produttore Dino De Laurentiis ha in mano un bel gorilla da pelare. Il budget della pellicola è lievitato da 10 a ben 24 milioni di dollari e il comparto degli effetti speciali è ancora lontano dall'ottenere l'effetto desiderato. Il regista John Guillermin, per fortuna, è uno senza tanti grilli per la testa. E pensare che De Laurentiis, inizialmente, aveva pensato di rivolgersi a Federico Fellini. Quando acquistai i diritti di King Kong, per divertirmi chiamai Fellini, che mi disse «lo faccio subito», ma poi cambiò idea e non lo fece. Si immagina un King Kong fatto da Fellini. Di fatto svariati cineasti, da Roman Polanski a Sam Peckinpah, hanno negato a De Laurentiis la loro collaborazione, temendo di impelagarsi in un'avventura troppo rischiosa per la loro carriera. Ma al di là della scelta del regista, che con l'avvento di Guillermin non costituisce più un problema, De Laurentiis continua a trovarsi in difficoltà per quel che riguarda l'effettistica. King Kong deve assolutamente essere all'altezza delle aspettative di un pubblico diventato ormai molto esigente. La soluzione per De Laurentiis non è a portata di mano. Si trova a migliaia di chilometri di distanza. Gliel'ha suggerita Mario Bava, celeberrimo maestro dell'horror nostrano. La soluzione, come il suo suggeritore, ha infatti un indirizzo e un nome italianissimi. Dino De Laurentiis compone un numero di Vigarano Mainarda, provincia di Ferrara. Scultore e artista, spesso impegnato in produzioni cinematografiche nostrane, il suo nome è... Pronto, sono Carlo Rambaldi. De Laurentiis, al corrente delle sue straordinarie abilità, viene subito al dunque e gli offre su due piedi un lavoro. Si tratta di volare in America e costruire un King Kong così verosimile da imprimersi indissolubilmente nell'immaginario. Rambaldi al momento è senza impiego e sente il bisogno di impegnarsi in nuove esaltanti sfide. È vero, ha da poco collaborato con Dario Argento alla realizzazione di Profondo Rosso, rivelatosi un ottimo successo di pubblico e di critica, ma Rambaldi, in qualche modo, comincia ad essere stufo del trattamento riservato dall'Italia agli artisti come lui, considerati semplicemente dei tecnici o, nella migliore delle ipotesi, dei bizzarri burattinai. Caro Rambaldi, io penso che questi applausi siano una soddisfazione per il suo lavoro, per queste sue creazioni. Abbiamo visto il pipistrello, abbiamo visto la volpe e noi sappiamo che lei ha realizzato un sacco di altri animali meccanici. Sicuramente un sacco, ma lo strano è questo, che molte volte nei titoli del film il nostro nome non viene mai messo, perché sono talmente strane e veritiere le cose che realizziamo. Il regista il produttore, anche se il pubblico potrebbe anche capire che sono cose false, però non vuole che glielo si dica, perché altrimenti prende per falso anche parecchie altre cose che sono infatti vere. Carlo Rambaldi è uno scultore, un artista in cerca di riscatto. Dino De Laurentiis glielo sta offrendo su un piatto d'argento. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Rambaldi accetta immediatamente la sfida. Vola a Los Angeles, dove si prepara a conquistare la fiducia e i cuori delle platee di tutto il mondo. Prima di seguirlo in questo nuovo esaltante viaggio, facciamo un passo indietro. Carlo Rambaldi nasce nel 1925 nella tranquilla provincia emiliana, la cosiddetta Bassa, terra di afa e di nebbia, zanzare e voglia di riscatto. Con in tasca un diploma di geometra, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Le sue mani, infatti, a differenza di quelle di molti dei suoi coetanei, non sono fatte per essere affondate nella terra strappata all'acqua nel corso di innumerevoli bonifiche. Le sue mani sono fatte per creare, scolpire, assemblare, inventare, dare vita a qualcosa di più di una semplice scultura. Le sue creazioni sono vive, sono addirittura più vere del vero. Sebo! Che? Che hai lì? Dove? Ti piace? Vuoi che te lo regali? No. Mi fa impressione. Vabbè, non te lo posso neanche regalare perché il creatore di questo, di questo animaletto, che sarebbe una vedova nera, è lo scultore Carlo Rambaldi, che oggi è il nostro ospite e che pregherei di togliermi Più vere del vero, più reali del reale. Un po' come il cinema. E infatti è proprio alla settima arte che Rambaldi sceglie di prestare il suo incredibile, rarissimo e prezioso talento. Perché abbiamo fatto questa volpe? Fu un film, mi pare, L'avventura di Gerard, dove l'attore doveva rincorrere una volpe stando a cavallo e prenderla per le orecchie. Logicamente non fu possibile realizzarlo con delle volpi vere, per quanto ne hanno lanciato parecchie dozzine, con grande lamentela dei contadini che vedevano tutti i loro pollai assaltati, diciamo, presi d'assalto. Sì. E allora siamo ricorsi allo stratagemma di fare appunto questa volpe meccanica, che ha due pattini sotto il ventre. Questo gli permette di correre anche su dei terreni molto fortemente accidentati, anche terreni arati. Dall'alto, dall'elicottero, il pattino non si vede. Si vede invece questa volpe che corre fortemente. Il genio di Rambaldi è una affascinante combinazione di sapienza nella prassi scultorea, fusa con tecniche di movimento sia meccanico che elettronico. Consiste, di fatto, nel saper rendere vivi corpi inanimati. Gli oggetti già di per sé sono credibili in virtù della grande abilità dell'artista che li realizza con le sue mani, ma ciò non basta. È il movimento a porli in essere, a suggellare il passaggio dalla potenza all'atto, rendendoli davvero vividi, davvero reali. Il volo di un pipistrello è sempre elettrico, sì. È appeso a dei filetti molto sottili, in quanto l'apertura all'aria di un pipistrello non consente, anche perché il motorino ha un certo peso, di avere un volo autonomo, diciamo, no? Perciò va sempre sostenuto da dei fili che gli danno il tragitto voluto. Esatto. Mentre invece la volpe ha anch'essa un meccanismo interno, non è elettrica, è meccanica. La meccanica e l'elettronica si combinano splendidamente nelle mani di Rambaldi, facendo così nascere la meccatronica. Dalla felice interazione fra diverse discipline nasce la possibilità concreta di dar vita sul grande schermo a quelli che altrimenti darebbe tutta l'impressione di essere solo un fantoccio inanimato. I cultori dell'horror lo sanno bene. Poche cose appaiono inanimate in quel cult del genere che è profondo rosso. Dai merli alle lucertole, dalle bambole ai manichini, tutto è reso ancor più vivo e dunque più spettrale dalla sapiente arte di Rambaldi. Giunto sul set di King Kong, Rambaldi si adopera per rendere incredibile, ma allo stesso tempo vivo e reale, il pupazzo di 12 metri che reca le sembianze del gorilla più famoso della storia del cinema. Le riprese si dividono tra le isole Hawaii, gli studi di Los Angeles e le Twin Towers di New York, dove 30.000 comparse si presentano per la celeberrima sequenza della morte di King Kong. Il gigantesco pupazzo meccanico è costruito da un'ossatura di 3,5 tonnellate di alluminio, ricoperte da un pesante strato di gomma su cui sono stati applicati più o meno 460 kg di crini di cavalli argentini, attaccati uno ad uno. Al suo interno 945 metri di tubi idraulici e oltre un chilometro di cavi elettrici. Per far sì che il personaggio Kong sia in grado di far trasparire diverse emozioni, il suo volto è dotato di 7 maschere intercambiabili. È controllato da 20 manovratori ed è costato in totale quasi 2 milioni di dollari. Questi sono i numeri del capolavoro del mago Carlo Rambaldi. Non hanno fatto per tu! Io soffro di vertigini. Quando avevo 10 anni mi portarono sulla Statua della Libertà e vomitai nell'ascensore. No! No! Fammi scendere! Oh! Professione antifemminista, scimmione deficiente! E accidenti vuoi da me! E se devi mangiarmi? Avanti, che affetti, mangiami! Avanti! Fallo finita! Avanti, incozzati! E che ti vada per traverso! Il Colossal di John Guillermin lascia il pubblico a bocca aperta, ma non conquista il gelido cuore della critica a dispetto di tante emozioni e di tanta fatica produttiva. Carlo Rambaldi, a dire il vero, è l'unico membro della produzione a far breccia nei cuori dell'Academy Award. Nel 1976 l'Oscar per i migliori effetti speciali non può che essere suo. E per Dino De Laurentiis, che ha fieramente importato dall'Italia questo timido cinquantenne capace di fare magia, il premio rappresenta l'ennesimo successo personale. Destini incrociati. Destini Incrociati sta seguendo la carriera di Dino De Laurentiis, grande produttore cinematografico di origini italiane, emigrato negli Stati Uniti e abituato a far faville al di qua e al di là dell'oceano. La sua ennesima geniale intuizione ha rivelato al mondo intero l'estro e la tecnica di Carlo Rambaldi, mago della meccatronica e degli effetti speciali. King Kong ha segnato la sua prima esperienza sul suolo statunitense e con essa il suo primo premio Oscar. Per il timido artista ferrarese si tratta dell'inizio di una strabiliante carriera oltreoceano. Siamo nella seconda metà degli anni 70. Registi e produttori, dopo il suo exploit in King Kong, fanno a gara per accaparrarsi il talento di Carlo Rambaldi e metterlo al servizio dei propri film. Il 1977 è l'anno di Incontri ravvicinati del terzo tipo, pellicola che segna un duplice battesimo per Rambaldi, quello con Steven Spielberg e quello con la fantascienza, genere destinato negli anni a venire a regalargli enormi soddisfazioni. La prima arriva nel 1979, quando il britannico Ridley Scott lo vuole a tutti i costi per realizzare l'orrendo mostro che terrorizza l'equipaggio della Nostromo, l'astronave protagonista dell'inquietante Alien. Sigourney Weaver, divenuta celebre proprio grazie all'interpretazione del coraggioso tenente Ripley, ricorda estasiata il lavoro di Rambaldi. I got this audition. Ottenni di fare un provino. Mi avevano mandato un copione, ma io non conoscevo i progetti dei disegni di Rambaldi. Figuriamoci. Mi ero immaginata una massa gelatinosa gialla che dava la caccia ai protagonisti. Nulla del capolavoro di eleganza che poi invece il mostro si è rivelato. L'opera di Rambaldi, in questo caso, consiste nel riuscire a rendere credibile e dunque ancor più spaventosa la testa di Alien. La celebre sequenza di Chest Buster, ovvero quando un esemplare neonato di razza aliena squarcia il petto a uno dei membri dell'equipaggio, è indiscutibilmente una delle scene più raccapriccianti dell'intera storia del cinema. Ed è tutto merito di Rambaldi. Le sue creature, rese vive e vegete da un lavoro minuzioso e insostituibile, sembrano volergli bene. Dopo King Kong, anche Alien regala un premio a Rambaldi. Nel 79 l'artista italiano vince il secondo Oscar per gli effetti speciali. Ormai sembra averci preso gusto e non ha la minima intenzione di fermarsi. I produttori e i registi, d'altra parte, adorano lavorare con lui. Il suo fare timido, a tratti remissivo, non interferisce platealmente con l'ego ingombrante dei registi abituati a sentirsi onnipotenti. I rapporti sono sempre limpidi, sono sempre. E anche il regista a volte può dirmi che voleva una cosa fatta un po' diversamente, io sono pronto a cambiare, insomma, no? Il regista va rispettate le sue volontà. Il regista deve essere sempre contento di quello che gli diamo. Docile e condiscendente, eppure pronto a far valere le sue idee se queste sono indispensabili alla buona riuscita di una pellicola. La serietà di Rambaldi sul lavoro come nella vita è una caratteristica davvero imprescindibile. Ed è proprio Dino De Laurentiis a tessere le lodi di questa qualità. È la serietà altrettanto, perché la serietà in un uomo di lavoro è indispensabile. Senza serietà lei non arriva da nessuna parte. Il discorso vale sia per Dino De Laurentiis che per Carlo Rambaldi. L'impegno e il lavoro duro non li hanno certamente mai spaventati. Forte del successo di Alien, Rambaldi sceglie di restare per un po' in ambito fantascientifico. È il 1982 quando Steven Spielberg lo chiama nuovamente per collaborare alla realizzazione del suo film più personale. Un po' storia di fantasia e un po' metafora dell'esistenza, questa pellicola è destinata a segnare per sempre l'immaginario collettivo. Stiamo parlando di E.T., l'extraterrestre. Era da anni che avevo in mente questa storia. All'epoca di Incontri ravvicinati del terzo tipo, avevo già in mente la storia di E.T. Ero completamente rapito dalla tematica extraterrestre. E ricordo che l'ingresso di Richard Dreyfuss nella nave madre mi aveva commosso, ma non troppo. Ma quando il piccolo E.T., disegnato da Carlo Rambaldi, ritorna sulla sua nave madre, allora lì mi sono commosso sul serio. Volevo che restasse con noi sulla Terra. Spielberg vuole a tutti i costi che il suo E.T. diventi l'extraterrestre per antonomasia. Deve avere un aspetto totalmente nuovo, capace di imprimersi con forza nella memoria di chiunque. L'esperienza di Rambaldi fa decisamente al caso suo. Volli Carlo perché aveva già lavorato con me in incontri ravvicinati del terzo tipo e iniziò subito a lavorare sul corpo di E.T. con la creta. Una vera e propria scultura vivente. Ecco quello che sarà E.T. Non un pupazzo, non un oggetto inanimato, ma un personaggio reale a tutti gli effetti. Gli hai spiegato che cos'è la scuola? Come spieghi? La scuola ha un'intelligenza superiore. Forse non è tanto intelligente, forse è una specie di ape operaia che sa solo spingere bottoni. È intelligente. Ok, speriamo di non svegliarci su Marte o chissà dove circondati da milioni di alieni mollicci. Ciao, Elliot. A soli 6 anni, Drew Barrymore è il più giovane membro del cast di E.T. Data la tenera età, di certo è la più facilmente impressionabile. Eppure non è la sola sul set a pensare che E.T. sia un individuo in carne ed ossa. E.T. per me era vero, punto. Mi rendevo conto che avesse delle parti meccaniche, ma io lo vedevo come una specie di angelo custode. Per me era vero ed era un buon amico. Qualcuno che mi insegnava ad amare e a prendermi cura degli altri, a trattare con le persone. Era lì, presente. Non era creato con il computer. Era un essere vero, tangibile. Ai nostri giorni, con le nuove tecnologie, non ci si può più concedere il lusso di sentirsi così vicini a qualcuno. E questo, a distanza di tempo, lo rende ancora più vero. I cari vecchi effetti speciali di una volta. Rambaldi sa bene che certe cose, un po' come il flipper, l'idrolitina, le caramelle mu, ormai al giorno d'oggi non si usano più. Beh, se uno vede la soluzione meccanica, ovviamente si rende conto che quel movimento è proprio reale. Mentre invece col computer c'è già un trucco, eh? C'è già un trucco che non rende, non c'ha problemi, però è un qualcosa di scontato, insomma. Cioè la gente sa che non è proprio il personaggio che si muove, che recita, che parla, eccetera. Credo che questo influisca, perché il pubblico sa se quella cosa è fatta realmente o invece truccata con altri sistemi. Sì, infatti oggi col computer si fa tutto, ma la gente sa che cos'è il computer e perché può far tutto. Cioè, decade il mistero, decade secondo me, perché il pubblico, sapendo che era così semplice fare tutto, da tutto per scontato. Da tutto per scontato, insomma, no? Perciò riduce lo spettacolo. E ti invece è reale. È un attore fra gli attori, un personaggio fra i personaggi. Anzi, a dire il vero è molto di più a sentire Spielberg. Questo piccoletto è entrato nella mia vita e in quella degli altri e ha fatto una magia. Mi sento molto in debito con lui, devo davvero molto a questa creatura venuta da un altro mondo. Difficile indovinare se Spielberg, nel parlare della sua gratitudine verso la creatura di un altro mondo, si stia riferendo alla creatura o al suo creatore, venuto dall'Italia per sconvolgere il cinema americano. Le analogie di fatto sono parecchie. Anche stavolta Rambaldi ha compiuto un miracolo. Il terzo Oscar è la conferma di un talento davvero fuori dal comune. 3 premi per 3 pellicole, i cui titoli sono i nomi delle creazioni di Rambaldi, King Kong, Alien ed E.T. 3 star indiscusse dei rispettivi film, 3 figure vive, reali, palpabili. È un po' come se fosse Rambaldi in queste pellicole a recitare la parte del protagonista. Dino De Laurentiis, convocandolo negli Stati Uniti, ha fatto una delle mosse più azzeccate della sua carriera. Una delle ragioni del successo della mia vita è perché ho saputo giudicare gli uomini, ho saputo giudicare gli esseri umani. Mi sono raramente sbagliato su determinati personaggi. Certamente non si può dire che si sia sbagliato sul conto di Rambaldi. Il cinema, per continuare a stupire, ha sempre bisogno di rinnovare la magia. Servono sempre nuova linfa e nuove figure capaci di perpetrare il mito ormai ultracentenario della settima arte. No, il cinema è un sogno. Il cinema è una fantasia. Il cinema è un grande giocattolo nelle mani degli adulti. E se le mani sono quelle di Carlo Rambaldi, non c'è dubbio che si possa andare avanti all'infinito a sognare e giocare indisturbati. And I can see my